Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento, secondo tema che affrontiamo questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, ritroviamo prima delle sue meritate ferie il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, si parla tanto di IVA, è stato rinviato l'aumento al 22 ottobre, c'è l'IMU che non si capisce bene che fine farà, c'è la TARES, tasse grosse e impegnative anche per le famiglie e per i conti di ciascuno, ma oggi parliamo di microtasse, sono state definite le poor tax, cioè le tasse dei poveretti o le tasse poverette, lo ha fatto il Wall Street Journal, quindi magari qualche centesimo, qualche decina, qualche decimo di euro, ma che alla fine nel totale del mese possono incidere. Di quali aumenti parliamo? Allora Mirko, come hai detto tu, noi ci troviamo in una situazione dove qualche deputato, qualche segretario di partito continua a mantenere o far vedere che ha una linea ferrea contro l'aumento dell'IVA o il rinvio dell'IMU, però quello che non sanno i cittadini è che in questo periodo ci stanno riempendo di microtasse che a regime ci troviamo a pagare quasi senza rendercene conto, fin tanto che non ci troveremo nella necessità di doverlo fare, ma che intanto il governo garantisce quelle coperture che dovevano entrare da una messa a regime dell'IVU e dell'IMA, che chiaramente spostandole hanno dovuto cercare di reperire queste risorse che comunque vanno a quantificarsi per un importo di circa 550 milioni di euro e che noi abbiamo già cominciato a pagare e che stiamo pagando. Ad esempio su cosa? Ecco, ad esempio su cosa? Allora innanzitutto ti dico questo, prima di parlare su cosa scopriamo che è stata abolita la tassa su yacht fino a 14 metri, che per chi ne possedeva uno doveva pagare la cifra di 800 euro all'anno, ed è stata rinviata anche la famosa Tobin Tax, che era la tassa sulle transazioni finanziarie, che certamente non andava a coinvolgere i piccoli o medi risparmiatori. D'altro canto, invece, parlando di contesti sociali più deboli, di cui penso un po' tutti ne facciamo parte, ci troviamo una marea di tasse che, per esempio, partiamo dalle sigarette elettroniche, dove addirittura siccome ci sono oltre 2 milioni e mezzo di italiani che non si trovano più a pagare le tasse ai monopoli dello Stato e non sono più schiave del fumo, adesso lo Stato ha pensato di mettere un'imposta pari al 55%. Poi abbiamo la pausa caffè che sarà più cara proprio per finanziare gli ecobonus, che andrà praticamente a innalzare l'aliquota dell'IVA dal 4 al 10% su tutte quelle macchinette che prima distribuivano merendine e cappuccini sia negli uffici che nelle scuole. Poi una cosa molto importante per quanto riguarda l'editoria, anche sui gadget è stata aumentata l'aliquota ordinaria dal 4 al 21% per tutti quei settori, e parliamo già di un settore molto in crisi, appunto come l'editoria, per quanto riguarda tutti quegli allegati o quelle appendici che si trovavano anche sui quotidiani e sui settimanali, magari che ci trovavamo ad avere anche in omaggio quando acquistavamo il quotidiano, che aveva come finalità quello anche di incentivare la vendita in un settore già particolarmente in crisi. E poi via via ci sono le marche da bollo, che per esempio dal 25 giugno la marca da bollo da 1,81 è passata a 2 euro, quella da 14,62 a 16 euro, e questo sicuramente da coinvolgere le persone nella normale vita, nella normale attività quotidiana, per esempio pensiamo alle fatture, agli atti dei notaio, il passaggio di proprietà, l'iscrizione all'università, alla richiesta di documenti e di passaporti, e infine per 75 milioni di euro dobbiamo attendersi le nuove accise sui carburanti. Prima che scattino ulteriori aumenti, viste le crisi in Egitto di questi giorni, e che poi arrivino puntualmente, appunto, come succede poi del resto d'estate, no? Prima delle ferie scattano gli aumenti della benzina, di quelli ce ne accorgeremo facendo il pieno, ma appunto queste sono, come dicevi, micro tasse, perché alla fine si tratta sì, di qualche centesimo, al massimo di un euro e rotti, però sono un po', mi viene in mente l'esempio della cicuta, del veleno, no? Bevuto da Socrate, che si era abituato bevendone un pochino al giorno. Qui un pochino, decimo dopo decimo, insomma, le tasse alla fine ci vengono prelevate, e poi in certi casi sono spese il gadget del giornale, magari puoi anche decidere di non comprarlo, ma altre cose davvero no. Ma sì, ma poi se pensiamo che, per esempio, no, l'aumento di un punto dell'IVA allo Stato viene meno un introito di circa 1 miliardo di euro, no? Già oggi con queste microtasse loro hanno superato per oltre 550 milioni di euro, quindi cosa vuol dire questo? Che in realtà anche l'aumento dell'IVA e il discorso dell'IMU, a parte gli incentivi che stanno avendo anche da Bruxelles, per esempio, per settori rispetto ad altri, pensiamo anche all'occupazionale, però diventano tutti paraventi, perché se in realtà fanno slittare i provvedimenti o stanno cercando di temporeggiare per capire se hanno i margini per un invio o meno, e auguriamoci che questo avviene, perché altrimenti ci sarà veramente un autunno bollente quest'anno, d'altro canto ci stanno falcidiando anche sull'aria che respiriamo, e sostanzialmente nessuno in questo sta prendendo posizione. Poi capisci che di fronte all'abolizione di una tassa su yacht fino a 14 metri, questa, mi ricordo, sinceramente è una beffa, perché come al solito vediamo che a questo punto i politici non fanno gli interessi delle famiglie che sono in difficoltà, ma hanno sempre degli interessi di qualche casta da dover fondamentalmente salvaguardare. Quella minoranza che detiene appunto la maggior parte della ricchezza alla fine viene agevolata anche con tasse che potrebbe pagare tranquillamente e nemmeno se ne accorgerebbe, magari di 800 euro, mentre 800 euro sono molto di più di una pensione minima. Beh, continuando certamente ad arrabbiarci, per esempio l'altro giorno stavo leggendo il decreto, quello occupazionale, dove lo Stato sta destinando oltre 1 miliardo di euro per le assunzioni dei giovani under 25, dove per 18 mesi sostanzialmente le aziende annunciano che riceveranno un contributo di circa 650 euro al mese. Poi leggo che per esempio il Veneto e Trentino Alto Adige, avendo una disoccupazione giovanile under 25 sotto il 25%, saranno le uniche due regioni che sostanzialmente questi benefici non ne potranno beneficiare. Quindi voglio dire, vediamo che sostanzialmente anche votare certi politici provenienti da certi contesti o aree geografiche, come pensiamo all'ultimo, no, Zanonato da Padova, per esempio, alla fine non porta questi veri benefici per chi magari in una territorialità di cui ne ha fatto appartenenza, poi alla fine sono i primi a doverci rimettere, proprio perché alla fine sono le prime che vanno a disconoscere. Quindi voglio dire che certamente per le famiglie che subiscono tutte queste cose qui non mancano quegli interventi corposi e di sostanza che può dare veramente uno stimolo, un'iniezione di fiducia ai mercati, quando invece ogni giorno apriamo e vediamo sui giornali e sui titoli di ogni rotocalco aziende che fondamentalmente per un fattore di tassazione che ha raggiunto limiti insopportabili hanno come unica via di fuga quella di andare a investire all'estero. Manca un po' di equità, insomma, ecco, per precisione diciamo che Zanonato non è stato eletto, ma è stato nominato dal governo. Insomma, la tua sottolineatura riguardava il fatto che un ministro di provenienza veneta avrebbe dovuto avere una maggiore attenzione per il nostro territorio. Con questo noi ci fermiamo, il nostro tempo è esaurito per oggi, per questa settimana, ma la prossima settimana altri due argomenti da affrontare insieme all'Adico. Grazie Carlo, buona giornata. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.